I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. This is President John McCain. President McCain, this is Osama bin Laden. I have your constitution. Where are you? I am on the roof of your headquarters. Come and get it if you are not too much of a coward. I don't negotiate with terrorists. Noi l'ultima settimana delle elezioni, non so perché, ma ci viene da cominciarla così. Questo è John Woo, il grande John Woo, che Dio gli renda merito e onore, che ha fatto anche lui la sua parodia elettorale. Insomma, a un certo punto c'è Osama Bin Laden che telefona, come avete appena sentito in questa raffinata parodia, telefona a John McCain, gli dice: c'ho la tua costituzione, vientela a prendere sul tetto di questo edificio. E lui dice: io non tratto con i terroristi. If only my friend Barack Obama was president. I'm not Barack Obama. Questo è un finale degno di nota, abbattuto dalle pistolettate di John McCain. Osama Bin Laden dice: ah, se solo il mio amico, notare la sciccheria, il mio amico Barack Obama fosse stato presidente. E John McCain, guardando in macchina, dice: io non sono Barack Obama. No, perché poi questa settimana sarà duretta, questi 8 giorni che ci separano, scarsi ormai che ci separano, dalle votazioni. Si vota martedì prossimo, saremo lì, persi fra i numeri, le percentuali, gli stati, magic number, voti elettorali e tutto il resto. Mi sembra che anche un po' in America, negli Stati Uniti, ci sia una certa voglia di scherzare, no? Di prendere in giro, diciamo di sdrammatizzare il momento, che è sicuramente straordinariamente importante, straordinariamente serio per gli Stati Uniti. C'è una certa voglia di così di mettere in parodia, di mettere in scherzo anche la portata epocale di questi personaggi che si stanno contrapponendo, mettendo gli americani davanti a un bivio, ma in realtà poi sono due esseri umani, hanno davvero il potere di indicare due strade diverse al paese, ma questo è tutto a vedere, tutto da giustificare. Comunque, cominciamo a occuparci di Obama e McCain in una situazione drammatica come gli ultimi 7 giorni prima del voto epocale del 4 novembre e vediamo un po' da che parte stanno. Allora, Barack Obama nella notte tra venerdì e sabato è volato indietro in continente dal Hawaii. Come sapete, è stato a trovare la nonna malatissima, che c'è addirittura il pericolo che non possa assistere al suo eventuale trionfo del 4 novembre. Si è preso 48 ore di libera uscita, è stato pedinato, ma devo dire con una certa educazione, un certo distacco dai media. Esistono solo alcune fotografie che già hanno preso una statura leggendaria, no? Di Barack Obama in sandali, in coreani e jeans, scamiciato, che se ne va in giro per le Hawaii per raggiungere il rifugio della nonna. Poi è tornato in America e ne ha fatta subito una delle sue, ovvero ha messo insieme 100.000 persone nel parco civico di Denver, una città del resto che ha imparato ad amarlo e che lui ha imparato ad amare dal momento che è la città nella quale è andata in scena a fine agosto la convention democratica, una folla entusiasta che ha strappato allo stesso senatore dell'Illinois un accidenti. Please welcome the next president of the United States, Barack Obama. Eccoli qua, gli U2, questo è il consueto audio che ormai abbiamo imparato a riconoscere. Poi c'è chi dice che forse Rockstar, no? Ne parlavamo con Guido Molteto la settimana scorsa, che la parola Rockstar sia ormai un attributo leggermente tramontato per Barack Obama, ma di fatto, insomma, una discesa in campo di questo genere ancora si presta a osservazioni di questo genere. Comunque è stato un rientro trionfale, che tra l'altro in parallelo vedeva invece McCain in difficoltà dal punto di vista numerico, non riesce a radunare le folle che vorrebbe. C'erano un migliaio di persone a Albuquerque nel Nuovo Messico. I discorsi non hanno aggiunto assolutamente nulla di nuovo a quello che già sappiamo, e per questo raramente ne parliamo, perché ormai il messaggio è stato messo in circolo, le unità sono pochissime, ha detto Obama. Per 8 anni abbiamo visto la filosofia di Bush e McCain spingere il nostro paese sulla strada sbagliata, non possiamo permetterci altri 4 anni dello stesso genere. McCain un pochino gliela tira, durante un comizio nell'Iowa ha detto: ma mi sembra che Barack Obama si stia misurando un po' troppo in anticipo i vestiti da presidente. In un'altra occasione in televisione ha detto: ma ho saputo che stanno già progettando la nuova tappezzeria per lo studio Ovale. Io fossi in loro lascerei che fossero gli elettori a esprimere il loro parere definitivo. Nel partito repubblicano invece la questione sta diventando piuttosto affilata e anche piuttosto difficile tra McCain e Palin. Ha il suo bel dire il candidato presidente John McCain che non esistono reali frizioni con la sua vice, ma in realtà c'è scontentezza perché si dice che Sarah Palin, lo avrete sentito da più parti nelle ultime ore, stia facendo un po' corsa a sé, stia facendo una corsa che in un certo senso punta a stabilizzare la popolarità del proprio personaggio, magari veramente come i più cattivi suppongono, per diventare una diva televisiva, magari invece semplicemente per prendere peso, importanza e rispettabilità all'interno del Partito Democratico, magari addirittura per mettere le mani avanti in vista di una sconfitta repubblicana fra pochi giorni e nella opportunità, nella eventualità di presentare una propria candidatura, magari addirittura a livello presidenziale per il 2012. Un attacco particolarmente duro è arrivato da David Frum. David Frum è stato l'autore dei discorsi di George W. Bush per diversi anni e mette sotto accusa in generale le strategie tenute dal Partito Repubblicano negli ultimi mesi. Secondo lui ormai la presidenza va data per persa, per perduta, ma non è questo il vero dramma che il Partito Repubblicano deve imparare a considerare. Il vero dramma in realtà è quello che succederebbe al piano immediatamente sotto, ovvero nel caso che la disfatta elettorale, una eventuale disfatta elettorale, dovesse spingersi fino a coinvolgere anche le Camere, ovvero dando ai democratici non solo la Casa Bianca, ma anche un ampio controllo della Camera e del Senato, con relativa perdita di numerosi seggi da parte dei repubblicani, una vittoria a man bassa che lascerebbe solo un pugno di grandi elettori al partito che Ronald Reagan portò dove mai sarebbe sognato e che secondo David Frum deve rapidamente fare un esame di coscienza, trovare una nuova leadership, trovare le motivazioni, le personalità e anche la progettualità di una destra conservatrice americana che sappia essere veramente tale. È arrivata domenica anche Maureen Dowd, come poteva risparmiarselo, la grande editorialista del New York Times ha scritto naturalmente in punta di penna il suo articolo su Sarah Palin, sullo scandalo dei vestiti, sui $170,000 spesi per rendersi presentabile, come dicono alcuni, per diventare Barbie Valentino o addirittura Lily of the Last Frontier, Lily dell'ultimo l'ultima frontiera, come ormai la etichetta la cattivissima Marin Dowd. Tra l'altro a più riprese c'è stato anche un tentativo di John McCain di giustificare la Palin, di dire: ma guardate, io tutto sommato continuo a provare ammirazione nei suoi confronti, e sappiate peraltro che quei vestiti hanno una sola direzione non appena saranno passate le elezioni. Andranno, eccola qua, ci sarà una cessione dei vestiti in beneficenza, non esiste nessun dubbio al riguardo, tutto sarà dato in beneficenza alla fine delle elezioni. Buona parte del nuovo guardaroba poi non è stato neanche mai indossato. Beh, questo mi sembra però una reale giustificazione. Sentiamo ancora McCain quando gli è stato posto il problema di Colin Powell. No, gli hanno detto: ma neanche Colin Powell vuole votare per te, come la metti? I'm disappointed in General Powell, but I'm very, very happy to know that five former secretaries of state who I admire enormously, Henry Kissinger, Jim Baker, Larry Eagleburger, Al Haig, questo che bofonchia è John McCain, che ha detto che in cinque avevano votato al posto nella stessa posizione di Colin Powell per lui, poi si ricorda soltanto quattro nomi, il quinto gli sfugge e si arrampica un po' sui vetri, ma del resto chi non sarebbe un po' stanco, un po' provato al suo posto? Peraltro 72enne John McCain sta tenendo botta, devo dire, in modo notevole allo sforzo a cui è sottoposto. Zogby, sondaggio di poche ore fa, un vantaggio per Barack Obama ancora stabile ma sempre in leggero calo, siamo adesso al 49,9 contro il 45,1, la forbice è inferiore, la differenza che separa i due candidati, ma sapete benissimo, l'ho detto più volte, questi sono dati nazionali da prendere non con le molle, con qualcosa di più grande delle molle, hanno un valore puramente indicativo, anche se poi i conti relativi al magic number danno ancora una volta, cioè al numero di grandi elettori necessari a vincere la presidenza, danno ancora per ora ragione in modo abbastanza evidente a Barack Obama. Gli endorsement di Barack Obama, non c'è giorno che qualcuno nuovo arrivi, oggi ne sono arrivati almeno due di notabili, anche se non magari in chiave assoluta, però America Oggi, che è il quotidiano in italiano che esce a New York e che è sempre stato di simpatie apertamente repubblicane, anche lui, vista l'aria che tira, ha pensato bene di dare il proprio sostegno a Barack Obama, e il sostegno più inaspettato è arrivato anche da parte del nostro ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini, che ha detto che il suo vero modello è Barack Obama. Ha detto la Gelmini: sta proponendo per la scuola americana provvedimenti simili ai nostri, penso soprattutto agli incentivi al merito per gli insegnanti. Secondo Gelmini, Obama è un vero coraggioso riformatore, ma non è certo il leader del PD. Me. dice yeah il nostro amico Sting. Oggi abbiamo scelto una scaletta classica, caro Emiliano, così per prepararci, no? Per crearci un ambiente amichevole per questa settimana così piuttosto emozionante. Difficile non esserlo se si è seguiti, insomma, questa stranissima, cioè, per certi versi pazzesca campagna elettorale. Però, come si dice, il mondo va avanti anche altrove e le notizie arrivano dappertutto. Prima pagina. Rassegna stampa cinese che ha il suo piatto forte e direi anche un po' indigesto con la melamina. Stefano, non riusciamo ad abbandonare questo incubo della melamina che continua ad aleggiare su di noi. Ci sono nuove inquietanti novità, però apriamo rapidamente sul Dalai Lama, perché notizia di ieri che oggi è stata ripresa anche da qualche giornale italiano: il Dalai Lama sarebbe pronto a prendere in considerazione una strategia più radicale, più cattiva tra virgolette, sul Tibet nei confronti di Pechino, e addirittura potrebbe richiedere, credo che sia la prima volta da quando ho notizia, insomma, del Dalai Lama, che potrebbe addirittura chiedere l'indipendenza piuttosto che la semplice autonomia. Quindi si potrebbero inasprire i rapporti, certo, già tesi tra Tibet e Pechino e governo cinese. Lo dicono i tibetani in esilio in India. C'è una dichiarazione riferita dal più stretto consigliere del Dalai Lama, Tenzin Takla, che dice: il Dalai Lama ha ormai perso la speranza di trovare una soluzione con l'attuale governo cinese, che non cerca affatto di risolvere la questione. Si ribadisce comunque che il movimento tibetano resterà non violento. Ed è arrivato da pochi minuti una notizia drammatica dagli Stati Uniti, una notizia di cronaca nera, il caso che ha sconvolto l'America durante il weekend, il massacro della famiglia di una giovane attrice afroamericana diventata molto popolare negli tempi recenti, premiata anche da un Oscar 2007 come migliore attrice non protagonista. Si chiama lei Jennifer Hudson, l'abbiamo vista anche in Italia in questo film musicale che si chiama Dream Girls. Ebbene, sua madre Darnell Donaldson e suo fratello Jason Hudson sono stati trovati uccisi nel weekend nella loro casa di Chicago. Era scomparso il nipotino, un ragazzino di 7 anni, Julian. Se c'erano stati appelli di ogni tipo prodotti non solo dalla Hudson ma addirittura, per esempio, dagli stessi candidati elettorali, è stato arrestato il 27enne, un giovane parente della Hudson che si chiama Balfour, e infine, però, la notizia più drammatica è stato il ritrovamento del nipotino. Il bambino Julian King è stato trovato morto in una automobile abbandonata. Tutti i siti internet e le televisioni stanno rimandando le immagini di questa storia di nera, che poi, naturalmente, come sempre in casi poi di grande tensione nazionale, tende a riempire gli spazi vuoti tra un discorso politico e l'altro. Comunque anche è stata confermata anche la morte del bambino. Torniamo in Cina, e come promesso torniamo a parlare di melamina. Io qui c'ho, Stefano, un bel dossier con tante notizie legate alla melamina, perché lo scandalo si allarga, perché non c'è solo il problema del latte ma adesso anche l'emergenza uova, perché sono state trovate tracce di melamina in una serie di partite di uova giunte a Hong Kong da Dalian. Torniamo su nel nord della Cina, queste partite avariate, appunto, comunque contaminate di melamina, credo con il doppio di melamina presente rispetto al consentito, sono state pizzicate dal South China Morning Post, il più importante giornale di Hong Kong, che naturalmente ha fatto il suo dovere e ha pubblicato questo nuovo scandalo sempre nel filone della melamina. Gli esperti ritengono che la melamina sia arrivata nelle uova attraverso il mangime dato alle galline. Contemporaneamente le autorità sanitarie di Hong Kong hanno previsto nuovi controlli allargati anche, pensate un po', ai prodotti che contengono carne, quindi veramente a questo punto la melamina potrebbe trovarsi davvero ovunque. Contemporaneamente arrivano dati tutt'altro che incoraggianti su quello che invece è stata la contaminazione per i bambini che hanno contratto la melamina, insomma, bevendo il latte in polvere. Addirittura pare che un bambino su 4 della capitale di Pechino abbia bevuto latte contaminato. I dati sono forniti dal Beijing News, dall'importante giornale della capitale, quindi 74.000 bambini su 308.000. Le storie che ci raccontava Luca Vinciguerra riguardo alla ricerca di latte non cinese, quindi per fortuna i morti e i malati gravi sono pochissimi rispetto al numero numero certo. così ampio di persone che hanno bevuto latte contaminato alla melamina. Nel frattempo il premier Wen Jiabao, dopo un lungo silenzio, si è scusato pubblicamente in una dichiarazione solenne per lo scandalo del latte contaminato. Ha detto che trarranno esperienza da quello che è successo e non faranno più errori del genere. Per carità, non si può certo dire che l'Iraq, l'Afghanistan e il Medio Oriente siano temi dimenticati, però è altresì vero che le cronache, no? Qui ci eravamo abituati con una cadenza giornaliera, spesso anche con un bollettino di morte che arrivava ogni 24 ore, in parte fortunatamente, in quanto la situazione almeno in Iraq è sostanzialmente migliorata, un po' perché le notizie poi si spingono l'un l'altra, fanno aggomitate, se c'è posto per una non è detto che continui ad esserci posto per l'altra, insomma queste notizie sono diventate sempre più diradate. Oggi ne abbiamo colta una al volo che tempo fa sarebbe stata di crociera, così di normale navigazione, ma un elicottero americano è stato abbattuto in Afghanistan, un Chinook a bordo 10 soldati, nessuno dei quali però è rimasto ucciso, tutti sono rimasti feriti, ma per fortuna nessuna vittima accertata. Invece sempre nel nord dell'Afghanistan c'è stato un altro attentato, un attentato suicida con la morte di un soldato americano e di un bambino. La situazione in Afghanistan ormai anche dai candidati alla Casa Bianca viene considerata primaria, la più preoccupante, la priorità assoluta a cui dedicare attenzione in Medio Oriente. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Time. Allora, siamo di nuovo a parlare di Stati Uniti, ma stiamo a parlare di Stati Uniti in una chiave diversa, e per farlo abbiamo bisogno di un aiuto. Prima vi presento l'aiuto, poi passo al tema. L'aiuto è quello di Federico Rampini, un amico della nostra trasmissione, un corrispondente di Repubblica dalla Cina, ma attualmente in trasferta negli Stati Uniti, probabilmente messo in forza ai suoi colleghi per il voto del 4 novembre, autore tra l'altro di un libro in uscita in questi giorni che ci è venuto a presentare in studio qualche giorno fa, una settimana fa circa. Si chiama 100.000 punture di Spillo, è scritto a quattro mani con Carlo De Benedetti e con la partecipazione di Francesco Daveri. Prima di tutto buongiorno a Federico. Buongiorno. Dunque Federico, il tema che vogliamo affrontare con te, americano fino al collo il tema intendo, però riguarda la tua biografia, nel senso che so che tu hai trascorso diversi anni a San Francisco e conosci bene questa città e questa realtà. Ebbene, se c'è un posto in America che sta facendo una specie di corsa a parte, almeno a vederla da qua, dalla lontana Europa, no? Lì c'è tutta un'America da attraversare, un Atlantico e poi un pezzo d'Europa, è proprio San Francisco, che sembra davvero una comunità differente, ma non solo perché Nancy Pelosi arriva da là, non solo perché, se si pensa alle nostalgie musicali o della cultura giovanile e psichedelica, si pensa a San Francisco e alla West Coast, ma perché succedono dei fatti reali che riguardano dei temi sociali costantemente in discussione anche nella nostra società, ad esempio il matrimonio omosessuale, ad esempio un rapporto corretto del gruppo sociale nei confronti della prostituzione. Ebbene, a San Francisco ne succedono di particolari di queste cose, vengono messe in orbita delle soluzioni perlomeno inedite, in certi casi anche stravaganti, ma che vorrei discutere con te. Ma vorrei cominciare col chiederti se tutto ciò è in parte o in buona parte o in gran parte dovuto alla presenza di un sindaco che mi sembra faccia sembrare Barack Obama un triste vecchietto conservatore, ovvero il poco più che quarantenne Gavin Newsom, che è un po' all'origine di queste ideazioni. Che dici? Ma sicuramente San Francisco rappresenta una punta estrema di innovazione trasgressiva, se vogliamo, di radicalismo, non soltanto dal punto di vista politico, ma nel costume. E questa è una tradizione molto molto antica. In fondo si potrebbe dire che Gavin Newsom, il sindaco attuale, è un figlio o perfino un nipotino delle tante rivoluzioni di valori che hanno avuto origine nella zona di San Francisco, della Baia, di Berkeley. Lì ci furono negli anni 60 le prime grandi contestazioni contro la guerra del Vietnam, il Free Speech Movement, che anticipò nel 64 di ben 4 anni il maggio 68 parigino, certo, e poi europeo. Nacquero lì il femminismo, l'ambientalismo, il movimento hippie, movimenti per la liberalizzazione delle droghe e naturalmente il movimento omosessuale, certo, l'emancipazione e la parità di diritti dei gay e delle lesbiche. San Francisco ha del resto un quartiere, il famoso in tutto il mondo, il quartiere del Castro, che è una roccaforte dei gay. Quindi Newsom, sicuramente l'attuale sindaco, è un simbolo di politiche estremamente avanzate, è stato quello più che si è esposto di più già 4 anni fa nella legalizzazione dei matrimoni gay. Mm-hmm. Oggi è al centro di una controversia con un referendum per il quale si voterà nello stesso giorno delle elezioni presidenziali. Però oserei dire che in fondo Newsom ha già vinto. Mm-hmm. Perché 4 anni fa, nel 2004, io ricordo perfettamente il clima in cui si svolsero le elezioni presidenziali precedenti, il caso di San Francisco, dei matrimoni gay liberalizzati, sì, e delle politiche del sindaco Newsom fu utilizzato dalla destra repubblicana molto efficacemente contro il candidato presidenziale democratico, che allora era John Kerry, ed effettivamente, diciamo così, l'estremismo, tra virgolette, di San Francisco giocò un brutto scherzo ai democratici, perché compattò un elettorato moderato attorno ai repubblicani. Certo. Oggi invece del caso San Francisco quasi non si parla più. L'America è talmente cambiata, diciamo così, che San Francisco ha vinto certe sue battaglie, E quindi in queste elezioni i repubblicani non riescono a usare Newsom come un demonio da agitare contro, certo, Obama, certo, questo è significativo. Certo. Però di fatto, insomma, conoscendo gli scenari americani, pensare per esempio a questa proposta che vuole abolire il reato di prostituzione nella stessa nazione, no, della, che ne so, della tolleranza zero di Giuliani, vuol dire creare, non dico mettere uno steccato, no, fare di San Francisco una specie di Fort Alamo del progressismo, ma comunque avere chiaramente l'intenzione di trasformare questa città in un simbolo, con tutto ciò che di buono e anche di pericoloso può venire. Certamente, questo è vero, e peraltro si scrive in una tradizione, perché ecco, tu citavi poco fa il caso della tolleranza zero, che invece fu una politica adottata dall'allora sindaco di New York Rudolph Giuliani, certo, per ridurre non solo la microcriminalità, ma anche per esempio il vagabondaggio degli homeless, dei senza tetto, e mettere fuori legge e punire severamente l'accattonaggio. Ebbene, già allora, quando Giuliani usava il pugno duro e le maniere forti della polizia contro i senza tetto di New York, San Francisco invece ai senza tetto offriva addirittura dei sussidi pubblici per aiutarli a sopravvivere, con il risultato che si innescò una vera e propria emigrazione, cioè San Francisco fu invasa da homeless che venivano da New York, e tuttora a San Francisco c'è un'alta percentuale di senza tetto che vivono per le strade in alcuni quartieri della città, favoriti anche non solo dal clima mite e da un certo permissivismo generale, ma anche da precise norme di assistenza a carico della città. Quindi è vero, la legalizzazione della prostituzione sarà un altro passo sicuramente clamoroso, ma in fondo San Francisco questo ruolo lo interpreta con molta audacia e molto piglio ormai da alcuni decenni. Oh, per concludere, tutte queste proposte naturalmente nel sistema locale vengono sottoposte a referendum, no? Si vota il 4 novembre e viene chiamata la California a votare. C'è tra l'altro qualche previsione che tu sappia sugli andamenti di questi voti? Sì, anche se è difficile che queste previsioni siano molto accurate, perché la quantità di referendum è così sterminata, certo, che certo, per certo, un elettore di San Francisco il 4 novembre sarà veramente difficile raccapezzarsi nella cabina elettorale. Comunque, in linea di massima, in genere la causa dei gay è vincente a, certo, San Francisco. Addirittura ha ottenuto dei finanziamenti colossali da aziende della Silicon Valley come Yahoo e Google, che non fanno politica in senso aperto, però su questi temi di costume, di società, prendono posizione. Certo. Va bene, grazie a Federico Rampini, buon lavoro, perché immagino che sei mobilitato sul fronte elettorale, vero? Io negli ultimi periodi mi sono occupato soprattutto della grande crisi finanziaria, bancaria, dell'economia globale, però giorno delle elezioni naturalmente sarò nella mia San Francisco, sperando che sia una giornata di festa. Grazie Federico Rampini, vi ricordo autore di 100.000 punture di spillo, Mondadori, in uscita in questi giorni, per capire alcune prospettive dell'immediato domani, non solo del potere, ma anche di chi è giovane e si sta avvicinando ad esempio al mondo del lavoro. Thank you. sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, no. Dunque, per chi non lo sapesse, per chi può essere interessato alla questione, che si parli un attimo di basket, no? Visto che si parla di America, perché domani alle 8 di sera, ora locale, comincia il campionato professionistico, c'è l'opening game, giocano Boston e Cleveland, insomma LeBron James contro i campioni NBA, piatto succulento, tutti abbiamo il cuoricino che batte per sapere se Danilo Gallinari ce la farà prima o poi, insomma, a unirsi alle prime partite, se non proprio all'esordio dei New York Knickerbockers, che partiranno anche loro in questi giorni con una squadra rinnovata, un campionato, un coach tutto nuovo. E tra l'altro molti auguri da parte del nostro programma a Isaiah Thomas, ex coach di New York, che come forse alcuni di voi sapranno è rimasto vittima di un grave incidente casalingo, personale, si diceva inizialmente una overdose di sonniferi, poi la storia è un po' ridimensionata, c'è stato un coma, adesso la situazione sta migliorando. Il 47enne, grande ex campione dei Pistons, nonché coach di New York, sta meglio e ne siamo contenti. Questo per il basket, poi ci torniamo domani. Cugino del basket, la pallavolo. La pallavolo ha una storia da raccontare invece di tutt'altro colore, perché arriva dalla Cina e porta il nome di Fon Kun, cinese, per molti addetti ai lavori, la migliore regista al mondo di pallavolo femminile, entrata in servizio per i colori dell'Asistel Novara. L'Asistel Novara è una squadra di campionato di A1 di pallavolo femminile, tra parentesi per ora due vittorie e una sconfitta, e abbiamo in linea Massimo De Stefano, il presidente della Asistel, che ci può raccontare la storia di Fon Kun, come è arrivata, come siamo riusciti a far entrare, a far parte del nostro campionato questa atleta star cinese. Buon pomeriggio De Stefano. Buon pomeriggio a lei. Allora, come siete entrati in contatto con l'atleta, che tra l'altro è campionessa olimpica a Atene 2004, come è andata la storia? Sì, noi abbiamo rapporti che partono un po' dalla lontana con la Cina, perché abbiamo avuto qui con noi già due atlete cinesi, ma più che altro anche l'allenatrice Jenny Lamping, che in Cina è un vero e proprio mito, avendo vinto anche lei come allenatrice, come giocatrice sia olimpiadi che mondiali. Grazie al rapporto che abbiamo con la Jenny, lei è riuscita a convincere questa atleta, che al momento è la più forte, come ha detto lei, nel suo ruolo al mondo, a venire in Italia da noi a provare per la prima volta l'esperienza al di fuori, appunto, della Cina. Ecco, come sono cominciati i rapporti? Che tipo di atleta vi siete trovati davanti? Quali aspettative nutrite nei suoi confronti e quali sembrano, dal vostro punto di vista, invece le aspettative che magari lei nutre nei confronti dello sport, del campionato italiano? Ma il primo impatto, a parte lei all'inizio, anche via email, era abbastanza timorosa, no? Perché non era mai uscita appunto dal suo paese, invece appena arrivata qui devo dire che è andata al di là delle aspettative, perché è una ragazza fra l'altro molto solare, disponibile, dice che è stata accolta come una star, ma non abbiamo fatto molto di più di quello che facciamo per le altre, nel senso che, faccio un esempio, cioè, ho fatto una domanda curiosa, se da noi l'elettricità c'è 24 ore al giorno. Sì, abbiamo letto questo, ma, cioè, ecco, ma anche noi ha sorpreso molto, no? Come ha visto gli elettrodomestici, è rimasto a bocca aperta. Quindi avete fatto un figurone in un certo senso. Sì. Però a parte questo devo dire che l'impatto è stato positivissimo e anche lei dimostra di essere molto contenta, e devo dire anche perché ieri alla prima partita in cui lei è andata in panchina non ha ancora giocato perché per problemi così anche di tesseramento, era lì che durante tutta la partita ha fatto il tifo scatenato, sembrava come se fosse qui da molto tempo, quindi è stato sicuramente positivo. Oh, tra l'altro questo è un episodio che sta avendo anche una certa visibilità a livello ufficiale, no? So che alla presentazione dell'atleta hanno partecipato anche autorità cinesi. Sì, è stata una conferenza provato molto bella, con tantissimi giornalisti, televisioni, fotografi, è venuto appunto il console generale della Cina, e quindi devo dire che ha avuto molto risonanza questo fatto. Siamo stati collegati in diretta con un sito cinese, hanno già scritto lì, e insomma tutto questo grazie anche alla collaborazione che abbiamo con un nostro caro amico, che è il dottor Barbone Daniele, che è uno di maggiori esponenti. È che è anche un nostro caro amico, un abituale. Che collabora anche certo, con voi, certo, perché certo. Logicamente poi un evento così, la Fong Kun in Cina è come dire un po' in Italia un Del Piero, no? Certo, con le debite certo. Proporzioni, e quindi si sta cercando proprio anche di instaurare delle sinergie a 360 gradi. Ecco, è possibile pensare sia per un club che forse anche su scala maggiore a delle autentiche sinergie in campo sportivo, ma che in questo senso diventa anche qualcosa di più, diventa anche il volano, no, di altre forme di interscambio con il relativo mondo dello sport e dello spettacolo cinese? Ma io lo spero, e ci si sta lavorando proprio per questo, appunto come dicevo col dottor Barbone, cercare di verificare, no, delle possibili sinergie sia di aziende italiane che semmai lavorano in Cina, oppure già di aziende cinesi che operano in Italia. E quindi anche grazie alla collaborazione appunto del console si stanno verificando queste possibilità, perché per quanto sia per la pallavolo l'arrivo della Fong Kun in Italia è un evento anche per il mondo sportivo cinese. Oh, per concludere, immagino che non ci vorrà molto perché in città diventi un piccolo idolo, no? Una piccola eroina locale. Novara la credo accoglierà con affetto. Sì, sicuramente. Stanno già organizzando anche per... si spera che la prima sua partita ufficiale sia la prossima, quella di sabato 2 novembre, e quindi c'è già molto, molto interesse e molta curiosità. Le dico, adesso sono davanti ai miei uffici, in questo momento nella sede ci sono quattro ragazze cinesi che Benissimo. Sono venute per conoscerla. Benissimo, allora, in bocca al lupo al carriera, all'immediato debutto di Fong Kun nel campionato cinese, probabilmente prima di una lunga no, teoria di atleti in arrivo in questo sport, la pallavolo come tutti gli altri, destinato a diventare globale. Li aspettiamo anche nel basket, arriveranno, hanno avuto una nazionale che si è fatta discretamente onore alle Olimpiadi, hanno già un paio di giocatori in NBA e una nutrita nidiata nel college basketball americano, non ci metteranno molto ad arrivare anche da noi. Ci Dicevamo del calcio, in realtà calciatori cinesi, mi sembra che ancora a livello professionistico non abbiano messo piede dalle parti nostre, no? C'è stato il momento d'oro dei giapponesi, poi si è un po' spento, no? Miura Nakatama, ma di cinesi credo, ma non è il mio campo di indagine, non ne siano mai arrivati professionali. Bene, comincia questa settimana di avvicinamento perciò all'appuntamento elettorale del 4 novembre per fare un nuovo presidente, per vedere se questo change, questo cambiamento, questa nuova America che si rinfacciano, che fa rimpiattino, no? Fra destra e sinistra, tra progressisti e conservatori, quale forma prenderà. Lo seguiremo giorno per giorno qui da Jefferson Ming, dove ci sono io, Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, la parte tecnica è stata curata oggi da Alessandro Chiappini a Roma, Milano da Carmelo Lauricella. Ci potete contattare a Jefferson Ming a trade24.it. La puntata va stasera in replica alle 9. Ci sentiamo domani in diretta alle 4 qui da Radio 24. Ma 人最聪明，不做无聊的回忆。Fancy。